Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione voglio mettervi solennemente in guardia da una religione diabolica che molti evangelici hanno già accettato e che professano con grande zelo. Sono costretto a mettervi in guardia da questa religione diabolica perché è davanti agli occhi di tutti coloro che hanno occhi per vedere, naturalmente, perché ci sono molti che non hanno occhi per vedere e quindi quello che io vi sto per dire non lo vedono, sono ciechi. È come parlare con un sordo, loro non ascoltano, hanno orecchie ma non intendono, hanno occhi e non vedono. Quindi questa mia predicazione ha lo scopo di mettervi in guardia da una religione diabolica che viene professata all'interno delle chiese evangeliche da tanti evangelici. Quindi non da tutti, voglio precisarlo perché sapete che ci sono molti che quando io parlo non capiscono niente. Sembrerà incredibile, ma è così, eppure parlo con chiarezza, ma quando io parlo ci sono alcuni che capiscono una cosa per un'altra. Sento veramente dire delle cose a taluni che veramente... Cioè, mi domando se sono persone che sono in grado di intendere e volere, perché alcuni sembrano che il cervello non ce l'abbiano proprio. Non è che ce l'hanno e lo usano, ma sembra proprio che il cervello non ce l'abbiano. Comunque, noi ringraziamo il Dio perché il Signore ci ha salvati, il Signore ci mantiene saldi nell'Evangelo, però dobbiamo prendere atto che è in corso un attacco veramente notevole all'interno diciamo delle chiese evangeliche contro la verità che è in Cristo Gesù e oggi molti non sopportano più la verità perché si sono volti alle favole, alle menzogne. Quelle sono ben accette le menzogne in tanti circoli evangelici. E allora, fratelli nel Signore, voglio annunciarvi alcuni principi di questa diabolica religione, affinché voi abbiate ben chiaro come, diciamo, si manifesta nella pratica questa diabolica religione, che appunto è un prodotto satanico. E naturalmente coloro che hanno prodotto questa religione sono loro, i soliti noti, i massoni. Infatti voi sapete che le denominazioni evangeliche sono piene di massoni, comprese le denominazioni pentecostali, e i massoni non se ne stanno con le mani in mano, ma del continuo operano in maniera da introdurre nelle chiese le eresie distruttive che la massoneria si propone di introdurre nelle chiese. E quindi questa religione, che è appunto una religione diabolica, è il prodotto dell'attività massonica in seno alle denominazioni evangeliche. È importante questo saperlo perché molti oggi non fiatano contro la massoneria, non fiatano contro i massoni, ma la massoneria è una realtà, i massoni sono una realtà e sono presenti in massa, ad altissimi livelli, in tutte le denominazioni evangeliche. Praticamente controllano tutto, diciamo, l'ambiente evangelico istituzionalizzato, tutto l'ambiente evangelico pentecostale istituzionalizzato. La realtà è questa. Poi, naturalmente, ci sono quelli che non credono a questo, però i fatti mi danno ragione, perché appunto questa religione diabolica esiste. E chi l'ha creata questa religione diabolica? Chi sono gli artefici di questa religione diabolica? Sento dire a tanti, sempre più a tanti fratelli, fratello Giacinto, non si capisce più niente. È vero, non si capisce più niente, nel senso che c'è una grande confusione in ambito evangelico, e questa confusione chi l'ha creata? Chi l'ha creata? Il nostro Dio è un Dio di pace, non è un Dio di confusione. Allora chi l'ha creata questa confusione? Perché questa domanda bisognerà che qualcuno se la ponga, non vi pare? Non vi pare che qualcuno si debba porre questa domanda? Se Dio non è un Dio di confusione, ma di pace, ma allora chi è che ha creato questa confusione, che crea questa confusione, questa avversione, che poi questa confusione è frutto dell'avversione alla verità che è in Cristo Gesù? Chi sono coloro che contrastano la verità che è in Cristo Gesù? Sono loro i massoni. Ebbene, cominciamo da Dio. Allora, in questa religione diabolica Dio è presentato come un Dio che non si adira, è un Dio che non è un vendicatore. Infatti, per coloro che professano questa religione, il Dio non è un vendicatore, non si vendica contro i suoi avversari. L'idea di un Dio vendicatore, dicono, è un'idea pagana. Pensate che cosa arrivano a dire questi evangelici? Un'idea pagana? Beh, ma allora voglio dire, i profeti del Signore erano pagani? Erano pagani i profeti del Signore? Il profeta Naum era un pagano? Non mi risulta che fosse un pagano. Era un profeta di Dio, uno dei profeti di Dio. E cosa disse? Cosa disse il profeta Naum? Cosa disse il profeta Naum ispirato da Dio? L'Eterno è un Dio geloso e vendicatore, l'Eterno è vendicatore pieno di furore, l'Eterno si vendica dei suoi avversari e serve il cruccio per i suoi nemici. Altro che Dio non è un Dio vendicatore, qui la Sacra Scrittura dice chiaramente che Dio è vendicatore, e se è vendicatore vuol dire che esercita le sue vendette, e questo appunto si accorda con la parola che dice: a me appartiene la vendetta. A chi appartiene la vendetta? Appartiene a noi? No, appartiene al Signore. Per questo noi non dobbiamo fare le nostre vendette. Perché l'Apostolo Paolo altrimenti dice: non fate le vostre vendette? Ricordate quando ai Romani dice queste parole al capitolo 12, dice così: non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete al posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Ma se il Signore dice a me la vendetta, vuol dire che la esercita lui la vendetta, e se lui l'esercita vuol dire che è un vendicatore. E badate bene che a parlare è l'Apostolo Paolo, e l'Apostolo Paolo parlava sotto la grazia, no? Perché alcuni dicono: no, sotto la legge c'era questa idea di un Dio vendicatore, poi questa idea è migliorata, si è evoluta col tempo e poi è scomparsa. No, assolutamente, Dio non cambia, la parola di Dio non cambia. Cambiano purtroppo tante chiese in peggio, e lo stiamo vedendo questo peggioramento che è in corso. Allora il Signore dice: a me la vendetta. Quindi a chi appartiene la vendetta? Al Signore Dio, al creatore di tutte le cose, a lui che non muta. Quindi era un vendicatore al tempo di Naum ed è un vendicatore ancora oggi. Vedete? Al tempo di Paolo era un vendicatore il Signore, ma che andate cianciando, ribelli, razza di vipere, vi siete fatti un Dio su misura, a vostra immagine e somiglianza, che poi, peraltro, questi ipocriti che dicono che Dio non è un Dio vendicatore, sapete cosa fanno? Basta che ricevono un piccolo torto e subito si vendicano. Loro le vendette le fanno contro coloro che gli fanno del male. Vedete quanto sono ipocriti? Ma dall'ipocrisia di costoro veramente si potrebbe parlare veramente per giornate. Sono quelli che dicono: non giudicare, fratello, non giudicare, e poi dalla mattina alla sera stanno a giudicare, stanno a dare sentenze contro tutti e contro tutto, poi ti vengono a dire, non giudicare fratello, hai preso una frase fuori dal suo contesto, ma quale frase fuori dal contesto? Ma quale frase fuori dal contesto? Io vi metto pure il contesto, non vi metto solo la frase, per farvi ascoltare appunto il contesto in cui la frase è stata detta, razza di ipocriti ignoranti, che avete solo veramente la voglia di contrastare la verità. Voi non è che contrastate la menzogna, voi contrastate la verità. Avete aderito alla religione diabolica, alla religione che il diavolo veramente ha escogitato per farla accettare appunto a tanti che si definiscono cristiani. Ecco perché riceviamo tutta questa opposizione, perché ormai questa religione diabolica ha preso piede, ha fatto le radici. Allora cosa bisogna fare? Uscire da queste chiese che hanno aderito a questa religione satanica. Io voglio ricordarvi che Satana significa avversario. E questa religione avversa la parola di Dio, contrasta la parola di Dio, contrasta la verità. Questa religione è un'acerrima avversaria della parola di Dio. Quindi va chiamata in questa maniera. Dunque ecco, per costoro Dio non è un Dio vendicatore, anzi per molti non si adira neppure. La scrittura dice invece che Dio si adira ogni giorno. Pensate, questi qua arrivano a dire che invece Dio non si adira. Il Dio è un giusto giudice, un Dio che si adira ogni giorno. E chi lo dice questo? Lo dice Davide, il dolce cantore di Israele, un uomo che era secondo il cuore di Dio. Non è così? E un uomo che parlò da parte di Dio per lo Spirito Santo parlò per bocca di Davide. Ebbene, Davide ha detto, Dio è un giusto giudice, un Dio che si adira ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada, egli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte, le sue frecce le rende infuocate. Avete compreso allora? Il Dio quindi, il Dio vivente è vero, non quello fasullo. Quello appunto che esiste solo nella mente di questa gente corrotta. Il Dio vivente è vero, è un Dio che si adira ogni giorno ed è un vendicatore. A proposito, l'ira di Dio è reale e si manifesta dal cielo. Si manifesta, sì, non è che si manifestava un tempo, adesso non si manifesta più. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Quanti oggi soffocano la verità con l'ingiustizia? Tanti, sulla faccia della terra, di tutta la terra. E cosa fa il Signore? Pensate che il Signore rimanga indifferente? Quando vede veramente che la verità viene soffocata con l'ingiustizia? No, il Dio manifesta la sua ardente ira contro coloro che appunto operano empiamente e li castiga in diverse maniere. Tra l'altro il Dio si usa di terremoti, facendo tremare la terra, facendo crollare case, edifici, perché il terremoto fa questo, lo so, produce tanti pianti, lo so, ma il Signore è un giusto giudice, il Signore è santo, ha dato una legge affinché fosse osservata, certo. La legge che il Signore ha dato, una legge santa. Molti prendono piacere a violare i comandamenti di Dio, perché sono dei peccatori. E Dio rivela la sua ira contro i peccatori tramite i terremoti, tramite le alluvioni, tramite le siccità, tramite i fulmini di cui si riempie le mani e li lancia contro gli avversari, tramite il vento impetuoso che fa cadere pure i minareti, avete visto l'altro giorno? Ho pubblicato un video dove appunto un vento impetuoso ha fatto cadere un minareto, non ci sono stati feriti, non ci sono stati morti, però intanto ha fatto cadere quel minareto. Ma il Signore Dio veramente con il suo vento veramente che tira fuori dai suoi serbatoi, il Signore può fare veramente qualsiasi cosa. Ricordatevi che il Signore divise il mare rosso in due e fece camminare a piedi asciutti gli israeliti in mezzo al mare. Quindi considerate un po' il Dio, che cosa può fare, quando comincia a far soffiare veramente un forte vento. Dio è tremendo, Dio è tremendo. Ascoltate, non date ascolto a coloro che vi presentano un Dio, diciamo, che assomiglia a Babbo Natale, che gioca, scherza, con i bambini. Il Dio è tremendo, il Dio è un fuoco consumante, il Dio ancora oggi i suoi nemici li castiga, esercita le sue vendette contro i suoi nemici, contro quelli che disprezzano la sua parola, contro quelli che disprezzano i suoi comandamenti, che pensano di farsi beffe di lui. Il mondo è pieno di empietà, è pieno di iniquità, è pieno di impurità, è piena di ribellione a Dio, come anche le chiese. Voi cosa pensate, che Dio davanti all'empietà chiuda gli occhi? No, il Signore è paziente, è vero. Ma badate bene, anche ai giorni di Noè la pazienza di Dio aspettava, ma poi venne il giorno che appunto Noè entrò dentro l'arca, il Signore ci fece entrare tutti gli animali e poi chiuse Noè nell'arca e mandò il diluvio universale che sterminò tutti coloro che appunto si trovavano, tutte le anime viventi che si trovavano fuori dall'arca. E quindi Dio è un fuoco consumante, Dio è un vendicatore. E che dire di Sodoma e Gomorra? Ce le siamo dimenticati, le città di Sodoma e Gomorra, le città circonvicine, che erano date alla fornicazione, a vizi contro natura, che erano arroganti, che non sostenevano la mano del povero. Che cosa fece il Signore? Che cosa fece il Signore? Fece scendere dal cielo fuoco e zolfo che ridusse quelle città in cenere. Infatti non c'è alcun, diciamo, resto archeologico di quelle città. Dio un vendicatore, quello stesso il Dio appunto che mandò il diluvio universale e poi che mandò il fuoco e lo zolfo su Sodoma e Gomorra, è il nostro Dio, è il nostro Padre Celeste, e noi siamo chiamati ad offrirgli un culto accettevole, con riverenza e timore, a differenza di quello che fanno molti, che pensano veramente quando si radunano veramente stiano veramente a una festicciola dove si deve scherzare, ridere e ballare. Offriamo così a Dio un culto accettevole, con riverenza e timore, tremiamo davanti a Dio noi, temiamo il suo nome, perché sappiamo che i suoi castighi si abbattono sugli uomini ribelli. Ricordatevi che il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio, ricordatevi che sotto la grazia il Dio giudica, punisce, anche facendo morire, sì. Anania e Safira, ve li siete dimenticati? Perché morirono Anania e Safira? Anania e Safira erano sotto la grazia, E sì, furono fatti morire dal Signore, perché si accordarono per tentare lo Spirito del Signore, mentirono a Dio, e Dio li fece morire, tutti e due, prima uno e poi l'altro. E quindi che diremo? Che diremo? Che il nostro Dio è un Dio crudele? Diremo che il nostro Dio è cattivo? Così non sia. Il nostro Dio è buono. Il nostro Dio è anche giusto. E dato che è giusto, ama la giustizia. E quindi odia gli operatori di iniquità e li castiga. Quindi Dio esercita sia nel mondo, ma sia anche nella Chiesa, i suoi giudizi, le sue vendette. Tremendo il Signore, è tremendo. E naturalmente quelli che professano questa religione satanica non hanno timore di Dio, ma figuratevi, ma li vedete, non hanno alcun timore di Dio. Servono il peccato come se niente fosse, come se Dio non esistesse. Si comportano, parlano, pensano come se Dio non esistesse. Certo, gli è stato detto che Dio non sa dire, che Dio non è un vendicatore, che vi aspettate da questa gente? Poi li incontrate, gli dite che Dio è un vendicatore, si scandalizzano, fanno gli scandalizzati, Loro però le loro vendette se le fanno, Il Dio non può fare le sue vendette, Ma loro le loro vendette se le fanno, sono dei vendicatori loro, quando il Signore dice di non rendere male per male, però loro il male per il male lo rendono. Vedete? Ipocriti! Siete una massa di ipocriti! Fate orrore! Fate orrore! Sì, voi che vi presentate dietro il pulpito con questo risino falso, così perfettini, sembrate dei fotomodelli, il Signore è buono, e fate tutte le vostre, diciamo, prediche che vi siete preparati nei minimi dettagli e che andate a leggere, poi dite no, il nostro Dio non è un Dio vendicatore, fratelli, il Signore è misericordioso, e invece voi nella vostra vita privata basta che vi pigiano un po' il pollice, come si suol dire, veramente, non i piedi, no, basta proprio che vi sfiorano un pollice e subito reagite con la vostra malvagità, cattiveria, hai capito? Allora veramente rendete veramente tutto il male a quella persona. Oh, vi ha sfiorato, se vi prendeva chissà cosa succedeva. Voi fate le vostre vendette, naturalmente la vostra vendetta è ingiusta perché l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio, però voi le vostre vendette ve le fate disubbidendo così a Dio. Voi il male che ricevete, quando ricevete il male, chi vi conosce lo sa che cosa fate, lo sa che il Dio sa come voi vi comportate, razza di ipocriti. Voi che dite che Dio non è un vendicatore, voi siete dei vendicatori, perché siete malvagi, ecco che cosa siete. Quindi, fratelli del Signore, vedete, è un punto cardine di questa religione satanica, il fatto appunto di Dio che non è un vendicatore. Questo è fondamentale, perché? Perché questa religione satanica non infonde il timore di Dio. No, ma perché Dio veramente viene considerato come uno veramente a cui non interessa proprio come ti comporti, quello in cui tu credi. No, proprio il Signore, proprio alla fine salverà tutti, non punisce nessuno sulla terra, e poi alla fine salverà tutti. Pensate un po' voi questi, Avete visto che Dio c'hanno questi? C'hanno l'Iddio della massoneria, perché il Dio della massoneria, dei massoni, appunto, non è un vendicatore. E non si adira. Una volta mi domandavo, ma come mai così tanti pastori negano che Dio sia un vendicatore? Poi ho scoperto, sono massoni, perché la massoneria rifiuta di credere in un Dio vendicatore. Andiamo a Gesù, perché la religione, naturalmente, questa religione satanica non poteva non attaccare Gesù. Allora Gesù, il Gesù di questa religione satanica è una via, una verità e una vita. Sì, avete capito bene. E quelli che professano questa religione satanica lo vanno pure a dire nelle piazze, che Gesù è una via, una verità e una vita. Voi direte, ma com'è possibile? Ebbene, servono il diavolo. Questi non servono a Dio. E quindi, naturalmente, dai pulpiti proclamano un altro Gesù. Già, il Gesù di questa religione satanica, ovviamente, non è Gesù di Nazareth, il Cristo di Dio, perché il Cristo di Dio è la via, la verità e la vita. E nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Lo ha detto Gesù, e io credo a Gesù. Gesù un giorno disse, infatti, queste parole le disse a Toma: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Invece questa religione satanica presenta Gesù come una delle vie, una delle verità, una delle vite. E perché? Perché appunto i massoni presentano Gesù come una delle vie, una delle verità, una delle vite. Siamo sempre lì, dietro ci sono i massoni. Allora, Gesù che cos'è? Beh, Gesù è stato un profeta, è stato un maestro di morale per costoro, un uomo buono che ha insegnato cose buone, ha detto cose buone, ha anche fatto tante cose buone, però non è la via, non è la verità e non è la vita. Quindi questa religione praticamente satanica contrasta, diciamo, l'esclusività di Gesù Cristo, la rigetta. Gesù ha il primato in ogni cosa, ma nella religione satanica che molti evangelici hanno accettato non ce l'ha il primato in ogni cosa. Diciamo, è uno dei tanti. Sì, proprio così, è uno dei tanti. Capite dunque perché per questi evangelici che hanno accettato questa religione satanica, in cielo ci vanno anche i musulmani, ci vanno anche gli ebrei disubbidienti, ci vanno anche i buddisti, i shintoisti, gli animisti, e così, induisti e così via. Avete capito perché? Perché ci sono tante vie per costoro. Non esiste solo una via che mena al Padre. Non c'è solamente una porta, una singola porta, una unica porta. No, ci sono più porte di salvezza. Gesù invece cosa ha detto? Io sono la porta. No, loro dicono Gesù è una porta. Perché? Perché sono massoni. Poi non ci interessa se hanno il grembiule, non hanno il grembiule. Ci sono più massoni senza il grembiule che con il grembiule nelle chiese evangeliche. Ricordatevelo questo. Però sostengono questo, questi che hanno aderito a questa religione, a religione satanica. Capite poi perché ci contrastano? Capite poi perché ci odiano, perché ci detestano? Perché loro predicano un altro Gesù. Non è lo stesso Gesù. Ma voi cosa vi pensate? Che basta che uno viene a parlarvi di Gesù e quello è Gesù. Ma avete sentito mai i mormoni quando parlano di Gesù? Parlano di un altro Gesù. Così i testimoni di Geova e così via. È un altro Gesù. Quindi attenti a chi vi presenta un altro Gesù. Questi evangelici che hanno aderito a questa religione satanica vi presentano un altro Gesù, un Gesù diverso. Ma voi direte, ma si definiscono evangelici? E che significa? Quella è l'etichetta che loro usano naturalmente per cercare di introdurre nelle chiese evangeliche le determinate eresie distruttive. Ma questi non credono nell'Evangelo, come vedremo. Assolutamente. Se credono in un altro Gesù, ma allora, se questi qua predicano un altro Gesù, ma possono predicare l'Evangelo? No, predicheranno un altro Evangelo, è conseguenziale la cosa. E difatti, in questa religione satanica, l'Evangelo viene rigettato. L'Evangelo che appunto predicavano gli Apostoli, perché è stato sostituito da un altro Evangelo. Infatti l'Evangelo che questi evangelici, diciamo, sostengono, predicano, è questo: Dio ti ama e ha interesse per te, Dio ha cura di te e ha interesse anche per la tua famiglia, per i tuoi figli. Questa è la buona novella che appunto questi evangelici portano. Ma questa non è la buona novella, questo non è l'Evangelo che predicavano gli Apostoli e che Cristo Gesù ha comandato di predicare ad ogni creatura. L'Evangelo è la buona novella che Gesù è il Cristo, che è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Qualsiasi altro Evangelo è un altro Evangelo, e difatti questi qua annunciano un altro Evangelo, e quindi sono anatema, sono maledetti, maledetti, sì, maledetti da Dio. Infatti vi ricordo che l'Apostolo Paolo all'inizio della sua epistola ai Santi della Galazia disse: ma quand'anche noi, quand'anche un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. E allora, questi cosiddetti evangelici annunziano un altro Evangelo, credono in un altro Evangelo e quindi non sono salvati, perché si viene salvati solamente credendo nell'Evangelo, non in un altro Evangelo. perché altrimenti veramente che senso avrebbe dover predicare l'Evangelo ad ogni creatura? C'è solo un Evangelo, un unico Evangelo, che è quello appunto che ricevette Paolo per rivelazione di Gesù Cristo e che Paolo, come anche naturalmente gli altri apostoli, annunziavano. Questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ma se qualcuno vi viene a annunciare un altro Evangelo, sappiate che quell'Evangelo non può salvare, non è in grado di salvare, e infatti costoro sono sulla via della perdizione, non sono sulla via della salvezza, come possono essere sulla via della salvezza uomini e donne che credono in un altro Evangelo? Vedete che cosa è riuscita a fare la massoneria? È riuscita a sostituire l'Evangelo di Dio con l'Evangelo della massoneria. È già, perché anche la massoneria c'ha un Evangelo, e che appunto è quello che questi cosiddetti evangelici trasmettono. Quindi questi cosiddetti evangelici che professano questo Evangelo non sono salvati, non sono affrancati dal peccato, non hanno i loro peccati perdonati, non sono giustificati, non sono santificati, non hanno la vita eterna. Ma perché? Perché credono in un altro Evangelo. Capite? È così semplice, così semplice. Certo, qualcuno dirà, ma è orribile quello che ci stai dicendo, ma è la realtà. Non vi sto parlando appunto di qualcosa, diciamo, di una fantasia mentale. No, vi sto parlando appunto di qualcosa che è un'immaginazione. No, vi sto parlando di ciò che è reale e che può essere constatato, visto, verificato. Le cose stanno così, fratelli nel Signore. Le cose stanno così, la situazione è drammatica. E dunque c'è, diciamo, un attacco, diciamo, forte contro l'Evangelo, che è l'Evangelo della grazia, perché appunto l'uomo viene salvato per grazia credendo nell'Evangelo. Che odio che c'è verso l'Evangelo di Dio, che odio che c'è in seno alle denominazioni evangeliche. Ma come mai questo odio? Come mai questo odio? È fomentato dai massoni, servi del diavolo. Perché appunto la parola di Dio dice che chi non avrà creduto sarà condannato. E appunto i massoni non vogliono sentire, non vogliono che si parli di condanna. No, assolutamente, perché per i massoni tutti vanno in cielo, tutti saranno salvati, perché tutti sono figli di Dio. Quindi, non bisogna parlare di condanna, ma mentre Gesù invece ha detto che cosa? Che chi non avrà creduto, ovvero nell'Evangelo, sarà condannato. C'è una condanna certa per coloro che non credono, non hanno creduto nell'Evangelo. C'è una condanna certa, fratelli nel Signore, E allora capite, l'Evangelo dà fastidio. Non bisogna annunciare l'Evangelo, bisogna sostituirlo l'Evangelo, appunto con un altro Evangelo, il Vangelo dell'inclusione che include tutti, che alla fine dice ma sì, tutti saranno salvati per la misericordia di Dio. Questo è il Vangelo dell'inclusione, infatti non si parla di condanna da parte di costoro. Di condanna per coloro che non hanno creduto nell'Evangelo, no, perché poi alla fine il Signore salverà anche quelli che non hanno creduto nell'Evangelo, ma sì, ma il Signore è misericordioso, ma tu ce lo vedi un Dio che manda all'inferno delle persone perché non hanno creduto nell'Evangelo? Sì, io ce lo vedo, perché la Scrittura lo dice, ecco perché noi crediamo che Dio faccia scendere nel soggiorno dei morti, appunto, quindi nell'inferno, nelle fiamme dell'inferno, tutti coloro che non hanno creduto nell'Evangelo, che sono la maggior parte degli uomini, la maggior parte di quelli che muoiono ogni giorno, appunto, sono increduli e che scendono nelle fiamme dell'inferno, mentre io vi sto parlando, sono là a piangere, a stridere i denti, a gridare dal dolore, dal tormento, perché sono in mezzo al fuoco. Chi non avrà creduto sarà condannato, altro che Evangelo dell'inclusione. La predicazione dell'Evangelo ha sempre escluso gli increduli dalla salvezza, ricordatevelo questo, perché solamente coloro che credono nell'Evangelo vengono salvati, gli altri non vengono salvati, rimangono sotto il dominio del peccato, e quando muoiono nei loro peccati, vanno all'inferno, dove c'è un fuoco reale. Ma questo appunto non deve essere detto da quelli che appunto odiano, non vogliono dirlo, perché non ci credono, da quelli che appunto odiano l'Evangelo e quindi si sono creati il Vangelo dell'inclusione. Allora noi vogliamo sempre ribadire l'Evangelo e vogliamo sempre ribadire che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E voi direte, ma allora miliardi di persone, ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Miliardi di persone allora andranno all'inferno. Sì, miliardi di persone andranno all'inferno, anzi già ci sono, poi ci sono tutti quelli che verranno, nelle generazioni a venire, sì, andranno all'inferno. Ma allora Dio è cattivo? No, Dio non è cattivo, Dio è buono, ma Dio è giusto, Dio non può rinnegare se stesso, Dio ama la verità, ha parlato, quella è la sua parola. Allora non credete che Gesù ha parlato da parte di Dio, certo. Perché non dite che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato? Perché voi non credete in Gesù, voi non credete in Gesù, voi non credete che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, che è venuto nel mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati, non ci credete che Lui ha parlato da parte di Dio, non ci credete. Infatti per voi che cos'è? È un maestro di morale, un profeta, ma non è il Cristo, il Figlio di Dio, disceso dal cielo nella pienezza dei tempi. E quindi, vedete, fratelli del Signore, bisogna veramente stare attenti. Quindi, quando qualcuno vi viene a dire, io credo in Dio, accertatevi di quale Dio sta parlando. Quando uno vi dice, io credo in Gesù, accertatevi di quale Gesù sta parlando. E quando vi dicono, io credo nell'Evangelo, accertatevi di cosa diciamo intendono per Evangelo. Perché la parola è bella, la parola è la stessa, però contenuto, l'etichetta è la stessa, come dire, ma il contenuto è spesso il contenuto è diverso. Sapete quanti ho visto che dicono noi crediamo nell'Evangelo, poi quando spiegano l'Evangelo allora capisci che questi credono in un altro Evangelo. Fatevi spiegare l'Evangelo, che cosa intendono per Evangelo, avete capito? Non fatevi ingannare da costoro. E poi veniamo alla condotta. Beh, la condotta chiaramente è conseguenziale poi di tutto questo, diciamo, di tutti questi principi diabolici, satanici, appunto, che costoro professano. In questa religione satanica ti puoi comportare come vuoi, perché ormai il peccato non esiste. Pensate che in questa religione satanica l'omosessualità non è peccato. Infatti a questa religione satanica aderiscono tutti quegli evangelici che sono omosessuali. Omosessuali, sì. Come dirà qualcuno? Ci sono evangelici omosessuali? Sì, ce ne sono pure tanti. Tanti. Anche pastori. E poi naturalmente anche pastoresse, perché ormai ci hanno messo pure le pastoresse a fare tante chiese i pastori, e ci sono anche tante pastoresse che sono omosessuali. Quindi, secondo questa religione satanica, praticamente il peccato non esiste. Non esiste il peccato. Cioè, diciamo che all'atto pratico, per costoro, il peccato non esiste. Eppure la Sacra Scrittura parla molto del peccato. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture. Cioè, il peccato esiste, è una realtà. Il peccato è la violazione della legge. Eppure, per costoro, ormai il peccato non esiste. Puoi mentire, rubare, fornicare, commettere adulterio. Puoi darti a vizi contro natura. Cioè, puoi fare qualsiasi cosa. Non ti devi preoccupare di niente, Dio t'accoglie così come sei. E già, quale Dio? Il Dio della massoneria, che è un falso Dio, non è il vero Dio. Capite? Per costoro mentire è come bere un bicchiere d'acqua fresca. Calunniare? Altrettanto. Fornicare, rubare, mentire, commettere adulterio, ubriacarsi. E così via. È normale. Ma quale peccato? Ancora credete al peccato? Ti vengono a dire, ma ancora credete al peccato? Ma è una nozione ormai sorpassata. Parliamo magari di qualche difettuccio che c'ha l'uomo. Qualche difettuccio. Gli omosessuali c'hanno qualche difettuccio. I ladri c'hanno qualche difettuccio, quindi. Gli omicidi. Ah, c'hanno qualche difettuccio. Costoro sono dei peccatori. Sono sotto la signoria del peccato. Non importa se si chiamano evangelici. E quando moriranno, se ne andranno all'inferno. Altro che qualche difettuccio. Che vuoi, fratello? Mica siamo perfetti. Così ti vengano a dire. Mica siamo perfetti. E chi ti parla chi è? Uno che c'ha l'amante. Fratello, mica siamo perfetti. E dove la vai a trovare la chiesa perfetta? Ti vengono a dire. E poi chi ti parla è un ladro. Che ruba dal... non dal cestino delle offerte, dalla cassa delle offerte. O magari un omosessuale, o un pedofilo. O uno che magari durante la notte va a qualche seduta spiritica e poi si presenta la domenica al culto. Dietro il pulpito, tutto bello incravattato, improfumato, a parlare appunto del Dio della massoneria. E così, le cose stanno così, una triste realtà, una cruda realtà, però vedete, fratelli del Signore, esiste questa religione satanica. È la religione dell'avversario. L'avversario si chiama così perché avversa Dio, avversa quindi la parola di Dio, avversa la santità di Dio, avversa il timore di Dio. Fratelli, l'Evangelo di Dio è così, è l'avversario. E quindi alla fine poi il peccato è come se non esistesse. Vi rendete conto che oramai dire oggi, diciamo dal pulpito, che l'omosessualità è peccato agli occhi di Dio e che gli omosessuali vanno all'inferno, ma sapete che si rischia grosso. Si rischia grosso. Cosa pensate voi? Mentre una volta era normale, adesso veramente è un rischio grosso. Parlare in questa maniera. Infatti, dove sentite predicare contro l'omosessualità dai pulpiti? Con franchezza? Dove sentite dire che gli omosessuali vanno all'inferno? Le denominazioni sono piene di omosessuali. Sapete che quando si parla del Vaticano si parla della lobby, di una lobby omosessuale, no? O comunque nella Chiesa Cattolica Romana si sa, no? Che esistono varie lobby, no? Ed esiste anche la lobby omosessuale. Ma la lobby omosessuale voi pensate che esiste solo nella Chiesa Cattolica Romana? Ma cosa pensate? Che nelle denominazioni evangeliche non ci sia la lobby omosessuale? Ci sono potenti evangelici che sono appunto omosessuali, come potenti prelati cattolici che sono omosessuali. Di cosa ci dobbiamo scandalizzare? Le denominazioni evangeliche riflettono quello che è la Chiesa Cattolica Romana, non vi pensate, la corruzione è quella. La corruzione è quella. Piano piano sta venendo fuori, devo dire, perché diciamo un tempo si parlava solo della corruzione, si parlava solo degli scandali presenti nella Chiesa Cattolica Romana. Adesso finalmente, diciamo, anche i media si cominciano a occupare degli operatori di scandali che sono presenti in mezzo alle denominazioni evangeliche. Siamo veramente grati a Dio, perché comunque sia Dio si usa anche talvolta delle persone del mondo per smascherare gli impostori che appunto i malvagi che in mezzo alle chiese guastano il tempio di Dio e che si presentano come ministri di culto riconosciuti dallo Stato, ma non riconosciuti da Dio. Quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono che hanno il riconoscimento giuridico, ma non hanno appunto il riconoscimento di Dio? Ah, sono così. sono conosciuti dallo Stato, ma sono veramente sconosciuti da Dio, non sono riconosciuti da Dio. E allora è meglio essere riconosciuti da Dio e non essere riconosciuti dagli uomini, non vi pare? Non vi pare? Però, sapete, molti ragionano come quelli del mondo, si dicono cristiani e poi ragionano come quelli del mondo, ma perché non sono ravveduti, non hanno la mente di Cristo. Loro vogliono essere riconosciuti come ministri di culto dallo Stato, con un decreto firmato dal Presidente della Repubblica, e poi se ne andranno all'inferno con quel riconoscimento giuridico, Che ve ne farete di quel riconoscimento giuridico quando vi troverete nelle fiamme dell'inferno, Ma che ne farete? Che vi sarà servito? Che vi sarà servito il riconoscimento giuridico? Dietro il quale appunto vi nascondevate per fare appunto le vostre opere malvagie. Poi alla fine però, quando poi morirete, vi ritroverete nelle fiamme dell'inferno, ne avrete del tempo per pensare agli anni passati con quel tesserino, a scorazzare per le chiese e a fare scandali di ogni genere dappertutto. E ce ne avrete di tempo in mezzo alle fiamme, del fuoco. Diciamo quindi quanto a morale questa religione è veramente orribile, perché praticamente in questa religione regna la dissolutezza. E quindi è bene tenere gli occhi aperti, fratelli, perché la situazione è drammatica, ormai te lo dicono chiaramente molte chiese, l'omosessualità non è peccato, ti dicono chiaramente che due possono convivere senza sposarsi, ti dicono chiaramente che i divorziati possono risposarsi, quindi per loro fornicazione, cioè per loro omosessualità, fornicazione, adulterio, ormai sono tutte cose permesse da Dio. Dio ti accetta così come sei, ti dico. Capite che cosa dicono? Quindi queste chiese non esigono, non predicano il ravvedimento. Ma perché uno si deve ravvedere? Dio l'accetta così com'è. Ravvedersi significa cambiare mente, ma questi non è che ti ordinano, ti comandano nel nome del Signore di ravvederti, di cambiare mente. No, tu puoi continuare a pensare come pensavi prima. Tanto Dio ti accetta così come sei. Non ti devi convertire dalle tue vie malvagie a Dio. No, assolutamente, Dio ti accetta così come sei, non c'è bisogno che ti converti. Non c'è bisogno che tu credi nell'Evangelo. Ma perché devi credere nell'Evangelo? Ma perché cosa? Mica l'Evangelo è l'unico messaggio che può salvare, ce ne sono tanti altri di messaggi. E quindi non hai nemmeno l'obbligo di credere nell'Evangelo, pensa un po'. Puoi credere anche in Maometto, in Buddha, tanto poi alla fine Dio salva tutti. Capite? In queste comunità qui ormai è così, e se tu proclami la verità ti perseguitano, è come se ti perseguitano, ma tu non hai amore, ecco una delle principali accuse, tu non hai amore, ce l'avete voi l'amore? Allora io ce l'ho l'amore, c'ho l'amore per la verità, voi sì c'avete l'amore però non per la verità ma per la menzogna, proprio siamo proprio su due strade completamente diverse. Voi amate e praticate la menzogna, io amo e pratico la verità. Che differenza! È certo che non ci troviamo d'accordo, non ci troviamo in comunione. È certo che voi dite non hai amore. Avete ragione, non ho il vostro amore, non ho l'amore per la menzogna. No, non ce l'ho l'amore per la menzogna. Io c'ho l'amore per la verità e quello voglio che dimori nel mio cuore fino alla fine. Tenetevi il vostro amore per la menzogna, e andate in perdizione con quell'amore per la menzogna che avete. Amate la menzogna? Volete amarla? Che ci posso fare io? Mi accusate di non avere amore? Già, voi vorreste che io avessi il vostro amore, quello per la menzogna? No, ringrazio Dio perché ha sparso nel mio cuore il suo amore. E il suo amore è un amore per la verità. Io odio la menzogna. Quindi anche le vostre menzogne, razza di ipocriti malvagi. E poi naturalmente andiamo al culto, brevemente, il culto deve essere uno show, eh? Deve essere uno spettacolo, non deve essere un culto dove regna il timore di Dio, eh? Dove veramente le anime sono prese dal timore di Dio, dove veramente ci si inginocchia davanti all'Iddio che ha creato tutte le cose, eh? E veramente lo si adora in spirito e verità. Non deve essere un culto dove veramente si piange confessando i propri peccati, no, deve essere appunto uno show, uno spettacolo. E difatti avete visto, i locali di culto sono diventati dei teatri, sembra di andare al teatro. Ormai si può dire, una volta sentivo dire andiamo alla casa del Signore, vabbè, a quel tempo, sbagliando naturalmente, lo sentivo dire, però almeno a quel tempo, voglio dire, andavo in un luogo dove veramente si adorava il Signore, dove si offriva a Dio un culto, diciamo, accettevole, con riverenza e timore. Ripeto, sbagliavano nel dire andiamo alla casa del Signore, perché l'hanno detto anche i miei parenti che erano salvati, adesso sono con il Signore, andiamo alla casa del Signore. Mi ricordo uno dei miei zii, quando ero piccolino, quando andavo in Sicilia, mi diceva andiamo alla casa del Signore. Vabbè, io non capivo, col tempo non ero salvato, però almeno lo vedevo che aveva il timore di Dio questo mio zio. Mi ricordo quando entrava nel locale di culto là in quel paese in Sicilia, là sulle Madonie, mi ricordo la prima cosa che faceva, si inginocchiava, e io rimanevo e dicevo, guarda mio zio, si inginocchia davanti a Dio. A me questa cosa mi rimaneva impressa, perché sapete, io ero un ragazzino, no? Un ragazzino vivace, sapete, a 13, 14 anni, 15, 16 anni, insomma, quando si è adolescenti, sapete come si è, no? Ma io vedevo questo mio zio che veramente quando entrava in quel locale di culto, praticamente mi diceva di mettermi da parte, lui ancora prima che iniziasse il culto si metteva in ginocchio e pregava il Signore, Invece adesso che fanno molti? Vanno al culto, addirittura ci sono pastori che mentre presiedono guardano il cellulare, navigano, vanno su Facebook, insomma cose assurde. Poi se si devono sedere ancora, continuano col cellulare in mano, ma dove pensano di essere questi qua al parco? Non lo so, ma dove pensano di essere? Ma che razza di pastori sono questi qua? Alcuni poi, mentre tutti sono in ginocchio, sono là in piedi con le mani in tasca. Ma come si fa? Sì, succede così. E poi naturalmente durante il culto musica assordante che rompe i timpani, proprio una musica assordante, musica rock, musica pop, deve proprio distruggere proprio i timpani delle persone, li deve proprio stordire. Infatti avete notato, sono così storditi quando arriva poi la predicazione, che gli possono dire qualsiasi cosa che praticamente non capiscono, non si accorgono di niente, e ci credo. Con tutta quella musica che è stata suonata, che veramente stordisce, sono arrivati praticamente alla predicazione, è tutta una tattica, è tutta una tecnica, per far arrivare poi le persone proprio al momento della predicazione storditi. E così quello può dire che Gesù non è stato ucciso da nessuno, quello può dire che Gesù è una via, una verità, una vita, sono storditi, non capiscono niente, capite? Sono storditi. Guardate che questo della musica, questo strumento della musica non lo dovete sottovalutare, perché veramente serve a stordire l'uditorio, anche a suggestionarlo. Avete notato, per esempio, no, quando anche devono fare certe preghiere vogliono la musica di sottofondo? E che è questa musica di sottofondo? Perché ci deve essere questa musica di sottofondo? A cosa serve? Serve ad ammaliare, a creare l'atmosfera giusta, per appunto suggestionare le persone, capite? Perché in questi locali di culto appunto c'è molta suggestione, molta. Attenzione, perché in questi locali di culto vieni manipolato mentalmente, c'è manipolazione mentale. E quando qualcuno si accorge, perché appunto qualcuno se ne accorge sempre, perché è mosso dallo spirito e condotto dallo spirito, subito viene emarginato, subito viene discriminato, perché ha capito che in quell'ambiente ti stordiscono. Ti stordiscono! Eh sì, è come se veramente calasse uno spirito di stordimento sulle persone. E infatti gli propinano tutte le false dottrine che vogliono. Possono fare qualsiasi cosa dal pulpito questi pastori. C'hanno un uditorio così stordito, ma che veramente si possono pure presentare in pantaloncini corti. Che posso dire io? Non lo so io. Potrebbero fare le cose più assurde, non gli direbbero niente. Direbbero sempre amen, gloria a Dio, e così via. Poi cosa succede? Cosa succede? Quando poi io gli faccio vedere a tutti, no? Quello che questi qua fanno durante il culto, se la prendono con me. Non è che se la prendono con quel loro pastore o con quel sedicente pastore che fa tutte queste cose strane, che dice tutte queste cose strane. No, se la prendono con me. Se la prendono con me. Capite? Eh già, e con chi se la devono prendere? Con chi dice la verità. Non con chi dice le menzogne, le falsità, contro chi ammalia l'uditorio, perché poi il fine poi di tutto questo cosiddetto show è quello di estorcere più soldi possibili a coloro che sono seduti e che sono venuti al culto dopo aver letto ingresso libero. Ingresso libero, però la predica si paga, la musica si paga, insomma, uno spettacolo, Insomma, quelli fanno le prove, insomma, si danno da fare. Deve essere pagato tutto. Certo, l'ingresso è libero però, altro inganno. Ma perché lo scrivono? Ma perché lo dicono l'ingresso libero? Bugiardi che non sono altri, Questi qui ti fanno pagare pure l'aria. Pure l'aria che respiri ti fanno pagare, questi qua. Sempre a chiedere soldi, Sempre a chiedere decime. A parlare di questa opera che si ingrandisce sempre, Certo che si ingrandisce, e ci credo che questa opera loro si ingrandisce sempre, fanno parte del circuito massonico, C'hanno tutti i permessi possibili, c'hanno tutte le conoscenze possibili, ma perché? Perché nei posti, diciamo, che rilasciano i permessi e diciamo deputati a fare determinate cose, ci sono i loro fratelli massoni, e quindi tra di loro si aiutano. Ecco perché poi in questi teatri, io li chiamo così oramai, non sentite predicare l'Evangelo, Non si parla dell'Evangelo, vietato parlare dell'Evangelo, quello è un teatro dove ci si deve divertire, Dove ci si deve divertire, dove si deve ballare, E quindi dove ci si può andare vestiti come si vuole, Una volta mi ricordo si diceva, Mi ricordo, perché queste cose qui me le ricordo, donne al culto con i pantaloni non se ne vedevano, non se ne vedevano. Adesso trovare una donna con la gonna al culto è raro, è difficile, sono quasi tutte quei pantaloni, per dire, vabbè, ma i tempi cambiano, ti dicono, vabbè, ma fra poco vedremo anche gli uomini arrivare con la gonna, e dov'è questo scandalo? Se lo vedete voi un pastore con la gonna, con una gonnicella, ma io sì. Credetemi, d'altronde oggi va di moda, no? Va di moda la gonna per gli uomini, e prima o poi si presenteranno pure al culto, diciamo, con pastori con la gonna. Dov'è sto scandalo? D'altronde, se le donne si possono vestire come gli uomini, perché gli uomini non si possono vestire con le donne? Ma sì, ti dicono loro, Dio, guarda, a che cosa guarda il Signore? Guarda il cuore, loro ti dicono. Ma tu pensi che Dio guarda se un pastore si presenta al culto con la gonna, o con la minigonna? Ma no, fratello, ma tu c'hai una mente retrograda, ti dicono, Dio non guarda queste cose, ma certo, infatti poi dal pulpito, anche se vedete qualcuno che prega con la testa coperta, diciamo, da un cappello, ma non c'è niente di male, d'altronde permettono alla donna di pregare con il capo scoperto, voglio dire, quando invece deve pregare con il capo coperto da un velo, Perché non permettere all'uomo di pregare dal pulpito con un cappello sulla testa? Dov'è lo scandalo? Capite? Questa è la religione satanica che oramai sta prendendo sempre più forma. E quindi sono tutti ammessi, tutti, tutti, nessuno è escluso. Poi non parliamo dell'ecumenismo, del dialogo interreligioso, quello si deve dare per scontato. Sono tutti figlioli di Dio, sì, vabbè, crediamo cose diverse, ma poi alla fine ci ritroveremo tutti in cielo, ti dico, o ti fanno capire, per strade diverse, ma ci arriveremo tutti in cielo, fratello. Quindi tutti in cielo e nessuno all'inferno, capite? E così appunto coloro che aderiscono a questa religione satanica, appunto poi quando muoiono si ritroveranno all'inferno, sì, all'inferno. E allora si ricorderanno, si ricorderanno, di quello che li avvertiva, si prendendosi tanti insulti e offese, ma sarà troppo tardi, sarà troppo tardi. Si ricorderanno di chi gli diceva che orecchi da udire oda, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori, si ricorderanno di chi gli diceva ravvedetevi, credete all'Evangelo, convertitevi dalle vostre vie malvagie, convertitevi a Dio, fatevi frutti degni del ravvedimento, siate santi, procacciate la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, si ricorderanno di chi gli diceva bada bene, Dio è un vendicatore. Dio è un fuoco consumante che non lascia impunito il colpevole, si ricorderanno di chi gli diceva queste cose o di chi scriveva queste cose, di chi metteva in guardia dall'inferno, ma sempre dell'inferno parli, no, parlo anche del paradiso, ma mi preme parlare dell'inferno perché so che appunto tanti ci stanno andando senza rendendosene conto. Allora si ricorderanno, ma sarà troppo tardi, come ho fatto, diranno all'inferno, a non ascoltare chi mi avvertiva da parte di Dio, come ho fatto ad andare dietro a questa religione satanica, come ho fatto ad andare dietro Tizio, Caio, Sempronio, come ho fatto a non accorgermi, che mi stavano menando in perdizione, sei là, sarai là, e quindi, voglio dire, sarà troppo tardi, e quindi a te invece che ancora sei vivo, e che sei ancora in tempo, a te che ti hanno tratto dietro veramente questi ciarlatani, questi che ti hanno portato veramente ad aderire a questa religione satanica, ti dico, ascoltami, ravvediti, convertiti, credi nell'Evangelo, il Signore avrà misericordia di te, ti salverà, ti perdonerà, ti giustificherà, ti darà la vita eterna, ma esci da queste organizzazioni, esci da queste chiese che hanno aderito a questa religione satanica, esci, separati immediatamente, immediatamente, perché questi distruggono il sentiero per il quale il giusto deve camminare, perché questi odiano. Odiano Dio, e quindi odiano anche coloro che sono stati generati da Dio. Io vi ho avvertiti, quindi non potrete dire che nessuno ci ha avvertiti. Io, per quanto sta in me, vi ho avvertiti. Io ho suonato la tromba in Sion, che ha orecchi da udire. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.